Il benzene era un gas ricavato dalle povere balene, anche in forma liquida serviva ad illuminare, nella Londra del primo 800 serviva a illuminare gli edifici pubblici, e nel 1865 il chimico tedesco Friedrich August Kekulé von Stradonitz, per gli amici Kekulé, ne scoprì la formula di costituzione, come il Kekulé ne avesse scoperto la formula restò un mistero, la formula di costituzione, un anello chiuso di 6 atomi di carbonio legati ciascuno ad un atomo di idrogeno. Restò un mistero fino a 25 anni dopo, allorquando, anche nel tentativo di rintuzzare alcune accuse di plagio, ad un convegno si decise a raccontare la sua verità. Secondo lui, venne folgorato dall'illuminazione giusta dormendo. Sognò atomi che danzavano e che progressivamente, mettendosi in fila, questi atomi mi presero la forma di un serpente che infine si morse la coda. Kekulé dormiente, ma attento come una spia, si svegliò immediatamente e si mise a disporre gli atomi di carbonio e di idrogeno come il serpente del sogno, e la scoperta era bella e fatta. Questo tipo di narrazioni è servito più volte agli scienziati per dare un'idea di quei momenti fondamentali della loro esistenza in cui sono giunti ad una scoperta fondamentale. Archimede e anche Beethoven credo che abbiano fatto cose egregie nella vasca da bagno. Poincaré, che nel 1905 era anch'egli giunto per vie indipendenti ad una formulazione della teoria della relatività speciale di Einstein, Poincaré racconta che le buone idee arrivano soprattutto a passeggio, e Feyerabend, che ai fini della scienza tesse anche le lodi della pigrizia, assicura Feyerabend che nessuna invenzione può essere portata a termine senza una vita sessuale soddisfacente. In epoca recente c'è stato chi, neurofisiologia alla mano, ha dato un consistente supporto a questa narrativa, tirando in ballo l'attività differenziata dei nostri due emisferi cerebrali, l'uno dominante, per lo più sinistro, seriale, linguistico, raziocinante, l'altro dominato, per lo più il destro, analogico, addetto a processare, diciamo, figure e musica. E constatando come il primo, quello dominante, in certi momenti di relax lasci brevi periodi di sopravvento al secondo, che allora approfitterebbe di vasche da bagno, tazze d'accesso, viali alberati, calde coltri, dormiveglia e torpori, per far scattare la scintilla, ovvero per porre quel rapporto nuovo fra due cose cui mai e poi mai quel noioso dell'emisfero sinistro sarebbe arrivato da solo. Vengo da 4 interminabili giorni di convegno con faringiti conseguenti, chiuso dal mattino alla sera nel medesimo posto, stanza da letto, colazione, pranzo, cena, tutto lì dentro. 9 ore in aula, relazioni, interventi, prosieguo nei corridoi, a tavola. Qualcosa come 15-16 ore sotto il fuoco dell'attenzione di qualcun altro. Mi ero portato del lavoro da fare e 2 libri da leggere. In quei rarissimi momenti in cui riuscivo a sgattaiolare in camera, ci ho provato. Aprivo il blocco degli appunti e prendevo la penna in mano. Non sono mai andato al di là della data, in alto a destra. Poi rinunciavo. Allora aprivo un libro, a qualsiasi pagina lo aprissi per me era arabo, provavo con l'altro, niente. Cosa avevo da spartire io con quella roba? Nulla. Perché me li ero portati appresso? Ma mi fosse venuto uno straccio di idee durante, non so, le interminabili ore del convegno? Niente. Acqua fresca quel che dicevano gli altri, acqua fresca quel che dicevo io, tutta roba che avevo già detto altrove in chissà quante altre occasioni. In quelle condizioni, e mi è venuto in mente tornando a casa ieri, prima di buttarmi sui miei due libri, che peraltro ho letto di un fiato, trovandoli interessantissimi, tornando a casa, in quelle condizioni il cervello non va mai in vacanza. Sei sempre in pubblico, sei osservato, reciti la tua parte sul palco, mentre stai seduto ad ascoltare gli altri, nei corridoi, in sala ristorante, perfino nei bagni, e fai parte integrante di una recita collettiva dove vigono leggi esplicite ed implicite cui devi attenerti. L'emisfero sinistro è sempre sul ponte di comando, sempre sul chi vive, non molla mai un attimo. Non c'è la gioia di un pensiero improvviso e strampalato, nessuna lampadina illumina a sorpresa una scena imprevista. È il costo del controllo sociale. È il costo umano di tutte le istituzioni totalizzanti, di tutti i recinti mentali e culturali di cui chi comanda ha sempre circondato chi è comandato. È il costo della società in cui per certi aspetti già siamo e verso cui stiamo andando sempre più rapidamente. Una società delle televisioni computerizzate, dei cellulari, dei microchip infilati ovunque, del controllo globale. La società dei depressi e degli obbedienti, dove la creatività è bandita. La maggior parte della gente, scienziati e non scienziati, di solito formula tesi, diciamo, autopropiziatorie. Gli è andato bene qualcosa a loro facendo così e cosà, e dunque pensano che se tutti facessero così e cosà otterrebbero ottimi risultati. E sbagliano, perché ognuno ha la sua storia e perché ogni storia è diversa. Ciò che vale in un contesto, in un altro può non valere niente. Quando Feyerabend tesse l'elogio dell'attività sessuale in rapporto alla creatività scientifica, quindi pensavo che parlasse per esperienza diretta. Invece nella sua autobiografia racconta che a 21 anni, nel 1945, in Polonia, da soldato tedesco, venne ferito e che tempo dopo dovette rendersi conto che quella stessa pallottola che lo aveva tirato fuori dalla guerra lo aveva anche reso del tutto impotente. Più che un'osservazione scientifica sulla storia della scienza, la sua allora è stata una banale supervalutazione di un bene che, non posseduto, gli è sembrato in grado di fare miracoli.